Essere e benessere di Nicoletta Carbone. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. E siamo al 26 marzo, siamo entrati nella primavera ma il maltempo non ci abbandona. Secondo gli esperti stiamo vivendo il marzo più freddo degli ultimi 50 anni. Ma tranquilli, la primavera è in arrivo, voi siete pronti? In linea con noi è pronto il dottor Alessandro Travaglini, biologo, ricercatore e responsabile del Centro di Monitoraggio Aerobiologico dell'Università di Tor Vergata. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno a lei, ascoltatori. Buona primavera. Buona primavera, perché siamo un po' in ritardo, ma arriverà. Sì, sì. E con gli interessi. Dico solo questo. Perché, dottore? È perché soprattutto le messe di febbraio, che è stato, come dire, invernale, come forse da tempo non ci ricordavamo, in termini di temperature e precipitazioni, ha determinato un generale rallentamento della fioritura delle specie di interesse allergologico invernale, in particolare il cipresso e il nocciolo. Queste hanno cominciato la loro fioritura praticamente una quindicina di giorni fa, grosso modo su tutto il territorio nazionale. Poi chiaramente l'Italia è molto lunga, quindi le condizioni possono cambiare abbastanza da nord a sud, però generalmente assistiamo a un ritardo di queste fioriture, che andranno a sovrapporsi a quelle primaverili che io reputo, anche sulla base delle previsioni meteorologiche che vengono fornite, che nella seconda metà di aprile avremo. Quindi avremo quelle di stagione più quelle che arrivano in ritardo, un mix esplosivo per gli allergici. Diciamo un mix più impegnativo. Più impegnativo. Allora, dottore, possiamo nel frattempo prepararci. Esattamente. Innanzitutto, chi è allergico, è bene che, spero l'abbia già fatto, abbia consultato proprio un medico curante e quindi stabilito un percorso virtuoso di test, cure preventive, e quindi sia sempre in contatto con il suo medico di fiducia. E oltre a questo, possiamo fare qualcosa anche noi nella nostra, certo, quotidianità, certo, abitudini di vita. Si può vedere intanto i bollettini del polline che sono pubblicati nelle diverse città, e quindi questo è già un forte aiuto, perché normalmente danno la concentrazione e la previsione. E poi, ad esempio, in primavera evitare i prati. Beh, dove sta avvenendo lo sfalcio, certo, oppure camminare sempre nelle giornate di primavera, quando ormai le graminacee saranno in fiore, con i finestrini aperti. Una cosa che spesso non facciamo è la sostituzione annuale del filtro antipolline nelle vetture. Per questo dicevo, prepariamoci, iniziamo già a sostituire i filtri, ad esempio. Esattamente, per esempio una volta si facevano le pulizie di Pasqua, ecco, le pulizie di Pasqua fatte per esempio non con aspirapolveri che rimettano poi dentro la stanza la polvere, magari dotate di buoni filtri o quella d'acqua, o il vecchio straccio bagnato, incredibilmente la cosa migliore per togliere la polvere e il polline che è entrato in casa. Sono piccoli accorgimenti che ci aiutano a stare meglio. Possono cambiare la quotidianità dell'allergico. Esattamente. Lei è allergico, dottor Travaglini? Sì. Ecco, grazie e buona primavera. Grazie anche a lei. E noi ci prepariamo alla primavera oggi insieme al dottor Andrea Franzetti, primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, che è in studio con me, insieme anche al dottor Luca Voledo, naturopata. Buongiorno a voi. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Una task force per aiutarci a prendere della primavera solo il meglio. Dottor Franzetti, intanto ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24 e naturalmente devo aggiungere che potete seguirci su Facebook e su Twitter. L'ho detto. Stiamo mettendo, dottor Franzetti, il naso in primavera. Sembra una battuta, ma il naso è proprio l'organo che questa stagione la sente e di cui questa stagione ne risente in modo particolare. E certo, si scatenano due cose. Si scatenano i pollini da una parte, dall'esterno, ma si scatenano anche gli ormoni, no? si dice in primavera si scatenano gli ormoni. Certo, tutto un frizzicorino. E questo si ripercuote anche sul naso, per cui succedono delle cose strane anche nel nostro naso, cioè il naso magari pizzica un po', inizia a starnutire un po' di più, inizia a volte a colare dell'acquetta qualche volta un pochettino, per cui dobbiamo pulirci o soffiarci il naso più di frequente, a volte si chiude un po' spesso, c'è il pizzicorino che magari è nel naso e un pochettino in gola, e poi a volte può venire un po' di prurito e noi non riusciamo a liberarci dal prurito di questo naso, che basta dire prurito viene, sì, prurito, è vero, a tutti, anche la Nicoletta si gratta il naso, la tossettina e tutte queste cose. Mi stanno venendo tutti. E voi dove sentite la primavera? Il dottor Franzetti ha detto che si risvegliano anche gli ormoni. 800 24 00 24 è un po' l'adolescenza, se vogliamo, no? Dell'anno, la primavera. Dottor Avoledo, però possiamo evitare di farci prendere per il naso dalla primavera. Sì, esatto, ci ricordava il dottor Travaglini, questo fra l'altro è il momento migliore, perché per fare una prevenzione naturale, per quello che riguarda appunto la difesa da allergie primaverili e non solo, bisognerebbe partire un mese prima. Meno male che siamo in ritardo, perché essendo in ritardo con la stagione, come ci ricordavano, questo siamo è proprio giusti. Il momento perfetto per gli allergici per mettere in atto una serie di piccoli comportamenti che, quando ancora non è necessario per esempio ricorrere agli antistaminici, ai farmaci, ai presidi appunto medicinali, i prodotti naturali possono fare moltissimo per diminuire la reattività allergica. Ad esempio? Ad esempio ce n'è uno che mi piace molto ed è anche, come dire, molto conosciuto tra gli appassionati di salute naturale, che è il ribes nero. Il ribes nero che è... Ribes nigrum. Ribes nigrum. Bene, bravissima. Ormai ho imparato. Ribes nigrum, che è quello che si usa per esempio anche a scopo alimentare per fare il cassis, per alcune altre preparazioni, è un formidabile antistaminico naturale. Viene venduto in due preparazioni molto diffuse, che sono il macerato glicerico, il gemmo derivato, una preparazione a base di glicerina, alcol e acqua, di cui si assumono in prevenzione 30-50 gocce una volta al giorno, per poi arrivare, quando la stagione dei pollini comincia a essere un po' effervescente, anche a 50 gocce due volte al giorno. Ma il ribes nero, questo non lo sanno in tanti, è venduto anche in perle ricavate, perle che contengono l'olio ricavato dai semi, che è un olio molto ricco di omega 3 e omega 6, acidi grassi essenziali, che hanno un'attività antinfiammatoria molto interessante, di cui si assumono due perle due volte al giorno. Quindi prevenire in questo momento si può, e noi lo faremo con i consigli del dottor Avoledo, guidati naturalmente dal dottor Franzetti. Affrontiamo la primavera, a cui diamo a volte tante colpe, ma non è sempre colpa della primavera. Il naso può diventare sensibile anche per altre ragioni. I cambiamenti nella composizione della flora batterica intestinale sarebbero implicati nell'insorgenza dei disturbi allergici stagionali. È quanto sostiene uno studio condotto dai ricercatori dell'Institute of Food Research di Norwich, guidati dall'immunologo Claudio Nicoletti, e pubblicato sul Clinical and Experimental Allergy, secondo cui sussisterebbero interazioni specifiche tra il benessere dell'intestino, la salute del sistema immunitario e la resistenza a specifici ceppi batterici responsabili di allergie e i probiotici. In particolare, aiuterebbero l'organismo, a partire dall'intestino, a difendersi dagli attacchi della rinite allergica. Tratto da Salute 24, una ricerca che ci dice, come a dire, che l'intestino ci mette lo zampino. In linea con noi il professor Lorenzo Morelli, preside della Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza. Professore, bentornato. Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Professore, c'è una relazione all'apparenza insospettabile? Sì, beh, insospettabile, però basta pensare che nel nostro corpo ci sono dei tessuti particolari che sono le mucose. Allora, queste mucose le abbiamo nel naso, no? E questo penso che sia così abbastanza noto a tutti, ma le abbiamo anche nell'intestino. E queste mucose si parlano, e queste mucose contengono tantissime cellule del sistema immunitario, che poi ha a che fare anche con le allergie. Ci sono degli esperimenti, ad esempio, per cui si può utilizzare il naso per vaccinare, ci sono dei vaccini sperimentali, spray, Per cui quello che succede da una parte, diciamo, corrisponde a un'altra parte. C'erano anche delle battute di alcuni comici, un dolore qui che mi risponde là, insomma, no? Ecco. E qui diciamo che ho una reazione immunitaria qui che mi risponde là. In effetti, allora, come dati sicuri si sa che la flora o microbiota intestinale, che è tantissima, è fatta da tantissimi batteri, ha la capacità di dialogare con il sistema immunitario dell'intestino e di modulare certe risposte. Gli studi recenti dell'italiano Nicoletti, uno dei tanti cervelli in fuga, dimostrerebbe che in realtà appunto questa azione immunomodulante dell'intestino si ripercuote anche su quello che succede nel naso. Quindi ecco questa, spiegata questa relazione che, vabbè, partendo dalle mucose adesso c'è molto più chiara, ma professore, partendo proprio dallo studio di Nicoletti, parafrasando un vecchio adagio, all'allergico non devi far sapere quanto? Quanto è buono il batterio con le pere, dovendo scherzare. No, quanto è importante assumere gli alimenti che possano avere la funzione di equilibrio della flora intestinale, quindi nel mantenere la flora intestinale in equilibrio o ancora meglio nello spingerla a dire al sistema immunitario di mucosa di fare certe cose piuttosto che altro. Quindi questo è importante. Noi sappiamo che attraverso l'equilibrio di tutti i batteri che sono presenti nell'intestino, che sono più di 1000 specie, sono tantissimi, ci sono tutta una serie di ricadute se questi batteri sono in equilibrio, i vari gruppi sono in equilibrio, positive, se non sono in equilibrio, negative. Quindi, professor Morelli, se volessimo dare ai nostri ascoltatori delle indicazioni pratiche sui probiotici per, in qualche modo, per spegnere, allontanare, mitigare, evitare, rallentare, qual è il verbo più giusto, le allergie, partendo dal ridurre il rischio, quali consigli potremmo dare? C'è una posologia? Sì, allora, io ho sentito in apertura di trasmissione che si diceva meno male che la primavera è in ritardo perché così abbiamo tempo di intervenire con dell'alimento. Questo vale anche per i probiotici. I probiotici non sono farmaci, quindi non è che quando c'è il sintomo già evidente si può intervenire con i probiotici. Bisogna utilizzarli prima perché altrimenti non riusciamo a stabilire, diciamo, gli equilibri giusti. Bisogna introdurre almeno 1 miliardo di questi batteri al giorno e tanto per dare un'idea, 1 miliardo è contenuto in un vasettino di un normale prodotto lattiero-caseario fermentato, 100-125 grammi, oppure in una compressa di un integratore che abbia questi batteri. E bisogna farlo almeno un mese prima di quando si pensa che poi possano arrivare l'incontro. Sì, possono arrivare anche i pollini, perché questa è un'altra delle attività studiate. Su certe sensibilità a certi pollini, effettivamente alcuni probiotici hanno dimostrato una certa efficacia. E quindi avere una specie di rumore di fondo giornaliero di 1 miliardo di cellule almeno un mese prima. Almeno un mese prima, dottor Avoledo voleva intervenire. No, interessantissimo quello che diceva il professor Morelli, nel senso che ormai gli studi che mettono in relazione il benessere intestinale con la reattività immunologica dell'organismo, quanto più l'intestino è a posto, l'intestino è sano, in situazione di eubiosi, perché si parlava di equilibrio tra batteri buoni e batteri cattivi, quanto meglio le difese immunitarie sono in grado di intervenire non solo nei confronti delle allergie, ma anche nei confronti, per esempio, delle malattie invernali. Trovati. Prima si parlava di prevenzione e molto spesso, per esempio in ambito naturale, in ambito naturopatico, si suggeriscono integrazioni di capsule, appunto, di fermenti lattici un paio di volte al giorno, magari contenenti ceppi batterici di tipo diverso come i lattobacilli e i bifidobatteri, che sono proprio in grado di modulare la risposta del sistema immunitario intestinale. Quindi, professor Morelli, lei suggerisce anche probiotici nei cambi di stagione? Sì, nei cambi di stagione sì, perché allora si tende a cambiare dieta, no? Perché, che so, arriva la verdura nuova, la frutta diversa, cose di questo genere. Purtroppo, e lo dico da agronomo, Le stagioni non sono più come quelle di una volta, non esistono più le mezze stagioni. No, ma non ci sono più proprio le stagioni, neanche le mezze, neanche quelle intere. E basta vedere, io sto guardando fuori dalla mia finestra in maniera desolata, e questa che dovrebbe essere la giornata primaverile, invece vabbè. E quindi siamo sottoposti a sbalzi di freddo, non si capisce bene come vestirsi. Quindi abbiamo cambio di dieta, stress, stress termici e sono dei fattori che danno fastidio ai nostri batteri, no? E quindi dargli un aiutino è il famoso aiutino per rispondere alla domanda della nostra salute, del nostro benessere, insomma. Grazie professore per essere stato con noi. Buonissima giornata. A voi, arrivederci. Sofia Guernaso de Falco scrolla la frogia perché c'ho questo mio da scavalco, ciascuno pensi per sé. Abbiamo Massimo che ci chiama dalla provincia di Lecce, Marianna dalla provincia di Latina. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi, l'argomento è interessantissimo perché cade a fagiolo sulla mia problematica. Nel cambio di stagione iniziano a pizzicarmi gli occhi, aumenta gli starnuti. È sparito. Massimo, a proposito... Io rispondiamo lo stesso. A proposito di... nel cambio stagionale cadono le linee. No, immagino che Massimo stesse chiedendo qualcosa, almeno come diceva, su che cosa fare, che cosa utilizzare. Certo, tutti questi sintomi magari un po' sfumati che si giocano nel triangolo, sì, no? Naso, orecchie, gola. Secondo me bisogna avere presente questa cosa, come si diceva prima, cioè che un conto se noi stiamo parlando di un sintomo che manifesta una malattia e un conto invece se noi stiamo parlando dell'organismo che si sta introducendo in un periodo, in un momento diverso dell'anno, la stagione o quant'altro. Perché? Perché noi dobbiamo cercare di utilizzare meno farmaci possibili e cercare di introdurre l'organismo con il benessere maggiore all'inizio. Per cui anche tutti, diciamo, i consigli che stiamo dando, no, dal punto di vista del naturopata oppure dal punto di vista alimentare, sono fondamentali. Perché ci permettono, se introdotti adeguatamente con il tempo giusto, di non arrivare ad utilizzare i farmaci nel momento della cosiddetta malattia. Certo. Perché un conto è usare un antistaminico in una rinite importante, in una congiuntivite importante, in un attacco d'asma, eccetera, piuttosto che utilizzare un antistaminico in maniera, noi li chiamiamo degli over treatment, cioè dei trattamenti che sono eccessivi per il pizzichino. Certo. Per dire. Ma consigli per prurito e lacrimazione, come ci avvertiva il nostro ascoltatore prima che cadesse la linea, quali possiamo dare, dottor Avoledo? Innanzitutto sposo perfettamente le parole del dottor Franzetti, perché le ha parlato, piace molto, ma mi piace quando, moltissimo. Quando sente meno farmaci, no, poi soprattutto natura... volevo dire che alla Nicoletta che le capsule, le perle di Ribes Nigros non vanno infilate nel naso, ma vengono mangiate, no? Perché a me sembra che va bene, comunque aiuta. Benissimo i farmaci quando servono, nessuno ovviamente è contrario ai farmaci, ma molto spesso se ne abusa, quindi i presidi naturali sono utilissimi, usiamoli con intelligenza e usiamo anche i cibi. Gli antiistaminici che combattono la produzione da parte del corpo di questa molecola che si chiama istamina, che è un mediatore chimico dell'infiammazione e del dolore, viene prodotta anche da alcuni cibi che contengono istamina. Allora mangiamo, magari poi ne parliamo se abbiamo tempo, meno di questi cibi che contengono istamina e forse ci servono meno antistaminici. Via l'elenco dei cibi, allora. Per esempio ce ne sono i cibi che fanno parte della frutta, come l'ananas, la frutta esotica, alcuni pesci grassi come le sardine, lo sgombro, alcuni prodotti in scatola contengono o istamina o liberano istamina nell'organismo. Quindi va bene appunto assumere farmaci antistaminici, ma forse potremmo fare in modo di produrne meno. 800240024, dottor Franzetti, c'è il nostro quizzettone, perché stiamo mettendo il naso nella primavera, spesso in primavera il naso prude, si tappa, gocciola, ma soprattutto è il naso chiuso quello che a lei interessa in modo particolare, perché sul naso chiuso, cari ascoltatori, il dottor Franzetti ha un quizzettone da proporci. Via. Allora, quizzettone, la domanda è questa. È molto carino. Allora, qual è il sintomo, cioè la cosa che ci succede, che può essere collegato più spesso al naso chiuso? Sì. Risposta numero uno. Il sintomo si chiama dislalia, che vuol dire una difficoltà ad articolare correttamente le parole, perché ovviamente avendo il naso chiuso la lingua un po' si inceppa, le labbra si muovono di meno e uno articola con più difficoltà le parole consuete. Risposta numero due. Sono due sintomi che si mettono insieme. Uno ha un nome difficile che si chiama disgeusia, che vuol dire sentire i sapori alterati, che è collegato con l'iposmia, cioè col sentire meno o alterati anche gli odori, perché l'odore e il sapore vanno insieme. Sì. Quindi il naso chiuso ci altera la capacità di sentire i profumi e quindi di sentire i sapori. Risposta numero tre. Il sintomo collegato al naso chiuso più frequente è la cervicalgia. Sì. Perché? Perché noi quando abbiamo il naso chiuso tendiamo a tirare la testa indietro per aprire la bocca e quindi aumentiamo la tensione muscolare del collo e quindi ci viene la cervicalgia, cioè il mal di collo. 800 24 00 24, vedo Laura Vannossi da dietro il vetro che è rimasta a bocca aperta. Voi potete fare il nostro numero verde, in sostanza tre possibilità. Quando il naso chiuso... Parlo con dislalia, il naso. Dislalia. Non senti i sapori e gli odori, oppure rischio la cervicalgia. 800 24 00 24, potete naturalmente anche risponderci su Facebook. Abbiamo due libri della libreria di Essere Benessere. La prima risposta giusta su Facebook riceverà il libro e naturalmente la prima risposta all'800 24 00 24 naturalmente corretta. Adesso noi andiamo a sentire i mercati. Voi raccontateci come sta il vostro naso, che cosa succede in primavera, dato che in questa stagione stiamo per metterci il naso. Raccontatemi come si comporta, che cosa lo irrita, che cosa gli piace, ditemi se riconosce bene gli odori, se invece fa un po' di confusione, se prude gocciola, si arrossa. Un altro dettaglio a proposito: la vostra voce è cambiata? Vi capita che qualcuno vi chieda al telefono sei raffreddata, quando invece il raffreddore non ce l'avete? Essere e benessere. E siamo tornati insieme, abbiamo voglia di primavera, ma la primavera, lo sappiamo, può esporci ad alcuni piccoli rischi che noi oggi cerchiamo di prevenire, come con la giusta alimentazione, con qualche attenzione, con l'utilizzo di alcune integratori, alcune erbe di cui il dottor Avoledo ci parlava. Ma intanto io vorrei proprio parlare con Marianna, che ci chiama dalla provincia di Latina, e poi subito dopo con Giorgio da Pisa. Marianna, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, siamo da Latina, da Pisa. Sono un soggetto allergico, in effetti non ho ancora iniziato il vero tour delle allergie, però volevo sapere, ma posso iniziare anche adesso una terapia antistaminica bella forte, morale, da prevenire? Perché ogni anno dico non succederà, non succederà, poi invece arriva. Ci cade dentro. Marianna. Grazie, dottor Franzetti. Allora, questo uso dell'antistaminico come prevenzione, Marianna ci chiede questo, ma secondo l'antistaminico me, ha un... Allora, noi dobbiamo dire, ho una forte allergia, che cosa vuol dire? Bisogna capire esattamente che cosa noi vogliamo affrontare, non dobbiamo essere troppo meccanicisti, cioè c'ho l'allergia, devo prendere l'antistaminico, c'ho l'infezione, devo prendere l'antibiotico, perché altrimenti è come se bypassassimo la possibilità di conoscere il nostro corpo e quello che succede. Allora, noi dobbiamo sapere se dobbiamo affrontare dei disturbi o se dobbiamo affrontare delle malattie. Quindi la prima cosa è capire che cosa dobbiamo prevenire. Dobbiamo prevenire dei disturbi stagionali che possono anche protrarsi per un certo periodo di tempo, oppure dobbiamo affrontare, perché conosciamo che ci succede abitualmente, delle sintomatologie molto importanti. Perché se dobbiamo prevenire delle sintomatologie molto importanti, allora può avere ragione d'essere l'utilizzo anche da subito, a scopo preventivo, anche di un antistaminico. Poi entriamo in un mondo quando parliamo di antistaminici, si tratta di capire quale. Perché ogni farmaco ha un effetto collaterale, quindi dobbiamo anche bilanciare l'antistaminico, certo, con quel che vogliamo fare nella vita. L'altro discorso invece, se la forte allergia per noi è una grande scocciatura che dura per un certo periodo di tempo, ma che non è una vera malattia. E quindi a questo punto potrebbe valer la pena introdurre tutte quelle proposte che ci facevamo prima di utilizzare eventualmente un antistaminico che interviene sul sintomo prodotto dalla liberazione di istamina. No? Per cui certo. E lì si tratta di capire esattamente noi come ci collochiamo in questo percorso qua. Io normalmente non parto mai con una terapia sistemica con antistaminici, tranne in rarissimi casi, perché tra comunque la prevenzione fatta con tante proposte che ci stiamo facendo e l'utilizzo dell'antistaminico, ci sono anche tante terapie topiche locali, sì, anche farmacologiche, che sono una via di mezzo e che non danno gli effetti collaterali che dà anche l'antistaminico. Anche se gli antistaminici di ultime generazioni sono molto più, diciamo, utilizzabili, danno molto meno sonnolenza, molto certo, meno ritardi, eccetera. Per cui, secondo me, ogni caso va studiato se stesso. E comunque sottolineava il dottor Franzetti, dottor Avoledo, che molto si può fare. Lei aveva questi alimenti che lei ci ha detto da ridurre o da evitare, soprattutto nei soggetti allergici. Sì, questo vale soprattutto. Aumentano la produzione di istamina. Chi soffre di allergia di sicuro non ha una carenza di antistaminici naturale. Sì. Quindi questo va detto, per completare le parole sacrosante che diceva il dottor Franzetti. Mi piace che vi trovate, venite qua tutti, siete, mi piace, questa alleanza mi dà grandi soddisfazioni, quindi. Quindi, allora, vediamo quello che si può fare prima di arrivare all'antistaminico. Sì. Si parlava di fermenti lattici per mettere a posto l'intestino, si parlava di alcuni presidi come il ribes nigrum, sì, anche l'alimentazione gioca un ruolo potentissimo. Questo vale soprattutto per chi ha delle forti manifestazioni allergiche, non solo di tipo, non solo allergie primarie, quindi estendiamo il campo, e non solo sintomi di tipo respiratorio. Ci sono alcuni cibi, facevamo menzione prima, che a maggior ragione quando l'allergia comincia anche a scoppiare possono essere ridotti perché sono ricchi di questa istamina, che è la molecola di cui ne abbiamo troppa già sufficiente. Ne abbiamo già troppa. Se prendiamo gli antiistaminici e poi non mangiamo i cibi che contengono istamina o ne promuovono la liberazione nel corpo. Quali sono questi cibi? Alcuni anche di uso, ne accennavamo prima, molto comune, come il cioccolato, i formaggi fermentati, il pesce grasso di mare, il pomodoro, lo scatolame, la frutta esotica, le fragole, l'ananas. Una riduzione, non un'eliminazione di questi cibi. Almeno nel momento clou. E in alcune manifestazioni, in particolare quando è presente prurito, la riduzione di questi cibi porta veramente grandissimi benefici. Il prurito, il pizzicorino di primavera. Certo, perché il prurito è proprio una delle cose che può succedere durante la primavera. Non dobbiamo dimenticare che il prurito è un riflesso, un riflesso, e quindi come tale fa parte di quelle cose che succedono in maniera involontaria, no? E che ci indicano che noi stiamo cambiando qualcosa di noi stessi e del rapporto con l'ambiente. E quindi è proprio come una sentinella, no? Non è solo un disturbo, è una sentinella che ci dice, come quando diciamo mettiamo il naso in primavera, è una sentinella, noi ci stiamo introducendo in un altro momento. E se prude è normale. Certo. Silenzio! No, più di naso, te la sei scordata. Aspetta un attimo, Silenzio! Eccola là! Bene, procediamo pure all'appello. Amoroso Maria Rita! Presente. Aggiungere la professione, lo stato civile, tutti i traguardi raggiunti nella vita, anche quelli mancati. E a proposito di naso, parliamo della voce nasale, che in realtà sarebbe una voce senza naso. Come fare per recuperarla? In linea con noi abbiamo un personaggio eccezionale che si occuperà della nostra voce nasale e non, Danila Satragno, la vocal coach. Ciao Danila. Ciao, buongiorno a tutti. La voce nasale che noi abbiamo tutte le volte che abbiamo il raffreddore è in realtà, Danila, come tu mi spiegavi, una voce senza naso. In realtà è così, perché praticamente quando abbiamo il raffreddore, in realtà abbiamo le fosse nasali intasate, per cui abbiamo una risonanza in meno, diciamo, per cui la voce risuona di meno ed ha questa caratteristica veramente un po' particolare, insomma, non bellissima, diciamo. Come si può fare, Danila, per recuperare una bella voce? Recuperare il naso, insomma. Recuperiamo il naso, perché ovviamente con medicinali, certamente, sicuramente, come ho sentito parlare i medici molto giustamente, sono molto importanti, però diciamo che se uniamo anche una buona forma fisica con un allenamento, ci aiutiamo un bel po', no? Quindi, per esempio, facendo qualche esercizio vocale per portare la voce molto avanti e cercare di articolare bene le parole, sia cantando che parlando, e facendo qualche esercizio molto simpatico, tipo l'esercizio della BR. Ecco, oppure, e su questo fammelo di nuovo, perché così io lancio le informazioni sul traffico. Vai con l'esercizio. Bene, allora tutti quanti insieme al mio via, 1, 2, 3 via. Essere e benessere. Danila, ecco qui, allora il primo esercizio per la voce senza naso l'abbiamo fatto, è una specie di moto. Giusto? Esatto, più lungo possibile, facendo una bella respirazione diaframmatica, che è quella respirazione che si vede muovendo la pancia, no? È l'ultima costole, la respirazione più potente. Così facendo riusciamo a ottenere già un buon risultato, oppure con esercizi di masticazioni, proprio per allenare bene il labbro, che è molto importante per produrre un suono preciso e articolato, e quindi come per masticare un enorme chewing gum. Quindi ricordiamo moto e M. Queste sono le due parole chiave per le voci nasali, ma c'è un'altra voce che è un po', non è l'opposto, ma insomma è sempre in quella zona, è la voce sbadigliata, la voce di gola. Certo, il dottor Franzetti è qua soddisfatto perché vede che perché me l'ha suggerita Danila, la voce sbadigliata. Danila, è la voce che... Così mi hai fatto fare bene. Sono yogi, no? Un po' le persone che parlano un po' con la voce indietro. Ecco, e qui è però una voce molto faticosa, perché proprio perché non si sfruttano bene le risonanze, per cui è una voce faticosa per le corde vocali, faticosa proprio per noi stessi, perché implica una cattiva respirazione, insomma, parlare male fa male a tutto il corpo, mentre fare bene l'esercizio e avere una buona voce parlata, oltre che avere una buonissima presentazione sociale e pubblica, serve proprio al benessere del fisico, al cuore, alla pressione. Respirare e parlare bene è molto molto più importante di quanto non pensiamo. E quindi anche per la voce sbadigliata esistono esercizi sempre di produzione del suono in avanti, potrebbero essere utili anche i due che ho citato prima, insomma. Senti, Danila, prima di salutarci, un consiglio per voci che non sentono le primavere, insomma voci giovani, per avere una voce giovane, fresca, bella. Ovviamente bisogna anche, come ti dicevo, il corpo è lo strumento, no? Noi abbiamo la voce che sta proprio nello strumento corpo, quindi dobbiamo stare bene, idratare le corde vocali, quindi bere molto, per esempio, è un trucco semplicissimo ma che è un grandissimo beneficio per la bellezza e per il fascino della voce. Quindi bere, ma bere molto, sto parlando anche di 2 litri di acqua al giorno. Grazie a Danila Satragno per essere stata con noi. Proveremo con i tuoi esercizi e poi ti faremo sentire che belle voci. Insomma, se il risultato è la tua voce, sono fortunatissima. Grazie Danila. Dottor Franzetti, grazie a lei. Abbiamo Elena che ci chiama da Verona. Mi segnalano che forse al nostro quizzettone. Elena, buongiorno. Sì, buongiorno. Penso che la risposta sia la numero 2, e come sente anche la mia voce, è una voce da allergica. Per questo sapeva. Esatto, esatto. Grazie. Ed Elena, faremo ricevere a casa un libro della libreria di Essere Benessere, in effetti. Grazie Elena, e complimenti. Buongiorno, buon lavoro, grazie. Ma in linea ho il piacere di avere il dottor Francesco Aquilar, psicoterapeuta cognitivo, uno degli esperti del nostro Daily Lab. Dottor Aquilar. Buongiorno. Ma come potevamo parlare di primavera senza di lei? Ecco. È bella la primavera e possiamo provare poi a dare qualche suggerimento per godercela. Però prima di parlare della primavera, dato che noi stiamo mettendo il naso dentro, io parlerei di naso con lei, inteso come intuito. Sì, come la capacità di aver fiuto, che sicuramente è una cosa importante, perché è quello che consiste nell'essere in grado di intuire immediatamente, senza dover ricorrere all'aiuto del ragionamento, una soluzione o qualcosa che ci può portare, appunto, come gli animali ad ottenere qualcosa, e questo lo possiamo riferire al denaro, agli affari, ai pericoli e ad altre cose. Certo, il fiuto ce l'ha anche il medico, no, dottor Franzetti, quando, no, capisce subito cosa fare, come la diagnosi da fare. Chi capisce da pochi sintomi la diagnosi ha fiuto. Dottor Aquilar, l'ho interrotta perché insomma l'intuito è assolutamente una qualità importante. Non so se si possa definire come qualità, è una qualità? È sicuramente una qualità, ma è anche un'abilità, perché è un'abilità di riconoscere così bene le nostre emozioni, che sono una forma di conoscenza rapida, immediata ed analogica, e quindi eliminando le persone che pensano di avere fiuto e invece non ce l'hanno, perché poi non hanno in realtà una verifica di questo che fanno, potremmo per esempio immaginare quelli che hanno fiuto per il denaro, che sono coloro che riconoscono subito le attività proficue. Il fiuto per l'audience in campo dei mezzi di comunicazione di massa può voler dire che qualcuno come Nicoletta Carbone sa su che cosa focalizzare l'attenzione degli ascoltatori, oppure fiuto per i pericoli, tipico per esempio delle persone fobiche e terapizzate, che riconoscono un pericolo e immediatamente riescono a prevedere cosa potrebbe succedere e a prevenirlo. E anche il fiuto in amore, eccola, che riguarda la capacità di identificare la disponibilità nascosta di un candidato partner, a volte addirittura prima che quell'altro se ne accorga, ma anche fiutare un pericolo romantico e allontanarsi subito dalle persone che sembrano interessanti ma che potrebbero dar luogo ad un'attrazione fatale come quella del film. Che bello che era quel film. Dottor Aquilar, a proposito di fiuto e di primavera, il nostro naso la sta fiutando e lei sul nostro Daily Lab ha postato dei consigli per affrontare la primavera. Sì, potrebbe essere opportuno, soprattutto in questo periodo in cui sentiamo parlare su tutti i mezzi di comunicazione di massa di problemi, di preoccupazioni, di allarme, di crisi, provare a ricordarci che queste cose sono sempre accadute nella storia e che potremmo decidere, per esempio, di goderci la primavera malgrado tutto. Questa è sicuramente una buona indicazione, dottor Aquilar. E un'altra indicazione voglio darla agli ascoltatori: andate sul nostro Daily Lab, il dottor Aquilar ha postato alcuni 7 piccoli consigli per gustare la primavera piena e non solo la primavera. Grazie dottor Aquilar per essere stato con noi, buonissima giornata e buona primavera. Dottor Franzetti, ritorniamo al nostro naso. Dottor Avoledo, vogliamo chiudere un po' questa trasmissione in cui abbiamo cercato di dare dei consigli di prevenzione. Il messaggio era chiaro: cerca di conoscere il tuo corpo, i sintomi, e cerca di capire che cosa vuoi fare di te, dottor Franzetti, e quindi in questo caso del naso, e anche per evitare tutta una serie di problemi. Abbiamo accennato anche il prurito agli occhi, anche poi le orecchie sono compromesse. Diamo gli ultimi consigli della trasmissione, proprio consigli pratici, avvertenze, istruzioni, insieme al dottor Avoledo. Sì, io dico due cose velocissime. La prima è: stiamo attenti che il naso non solo ci fa sentire quello che c'è fuori di noi, ma ci fa conoscere anche noi stessi, perché tante volte situazioni di stress, di ansia, di disappunto, di irritazione si manifestano con il naso che non va, anche se succede qualcosa dentro di noi. E se stiamo attenti anche solo per esempio il tic di tirar su col naso quando siamo nervosi, per esempio. Quindi no. il naso non mente. Il naso non mente, prima cosa. La seconda cosa che non abbiamo detto durante la trasmissione è che una delle cose che può comunque togliere dal naso allergeni o comunque fattori irritanti sono i lavaggi. Eccolo lì, un bel lavaggino nasale, come abbiamo più volte ripetuto nei nostri incontri, il dottor Franzetti consigliato a grandi e piccoli. Assolutamente. E anche in assenza di sintomi, vero dottor Franzetti? Sì. È proprio un'igiene, come si fanno le pulizie di Pasqua, approfittiamo di questa stagione per diventare pratici nei lavaggi nasali. Soprattutto perché possiamo rimuovere degli eventuali allergeni dal naso. Dottor Avoledo, le ha rubato un po' il... No, assolutamente, vero? Cose molto interessanti, si usano anche in tante tradizioni, per esempio nella Ayurveda si fanno i lavaggi nasali proprio per liberare le cavità. A questo punto aggiungo che esistono dei prodotti naturali, in particolare appartenenti all'ambito della aromaterapia, gli oli essenziali, sì, che possono migliorare, sono già in vendita in formulazione apposita. Sinceratevi che contengano degli oli essenziali specifici, balsamici e anche vasocostrittori, sì, come il pino silvestre, l'eucalipto e in particolare il cipresso, Cupressus sempervirens, che ha anche una capacità di provocare vasocostrizione nelle mucose, quindi ridurre la rinite e il gonfiore. E soprattutto, giustamente, di non usare o di non abusare di vasocostrittori invece farmacologici. Quelli non ci piacciono, vero, dottor Franzetti? Solo in rarissimi casi per pochissimo tempo. Allora, per oggi è tutto. Abbiamo Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, grazie. Laura Vanossi in redazione, dottor Avoledo, dottor Franzetti, grazie per essere stati con noi. E a voi che ci avete seguito, io do un appuntamento. Domani noi ci sentiamo, se volete, ma cercate di sì, domani alle 11, dopo il GR delle 11. Essere e benessere.